Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si comincia stasera con il Real Madrid, si finisce domani sera con il Barcellona o con il Milan, perché non c'è dubbio che questo sia il vero grande quarto di finale, quello di maggior prestigio. Poi è vero che gli allibratori non hanno molti dubbi sull'esito, tant'è vero che offrono la vittoria del Milan domani sera a 4,45, il pareggio a 3,75 e a 1,75 soltanto la vittoria del Barcellona, mentre per il passaggio del turno l'ultima quotazione è 4,15 il passaggio del turno del Milan e a 1,18, cioè una formalità, quello del Barcellona. Ma insomma, a parte il fatto che la palla al momento rimane rotonda, ma insomma se ne sono viste di sorprese nella storia, anche se questa oggettivamente sembra non molto probabile, lo domando al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Ma a me sembra, sono quote così che mi incuriosiscono, mi sembra molto molto bassa, troppo bassa quella del passaggio al turno al Barcellona. Poi eccessiva, sì. Sì, francamente sì, questo significa che ci sono stati volumi pesanti, volumi importanti sulla quotazione del Barcellona, e sarebbe stato interessante sapere a quanto è stata messa in gioco la quota, perché poi la quota si adegua in base, certo, in base alle giocate, quindi pare evidente che non ci sia molta fiducia nei confronti del Milan da questo punto di vista. Io trovo che il favore del pronostico sia evidente, però ci siano anche delle situazioni che possono volgere a favore del Milan. Insomma, l'Inter di Mourinho insegna che anche una squadra meno forte può trovare delle serate di grazia, delle serate particolari e battere anche il Barcellona, come accade a San Siro. Il Barcellona arriva in un periodo particolare dove arriva da una striscia lunghissima di vittorie consecutive tra campionato e Coppa, è in un discreto momento di forma, secondo me discreto, non ottimo, discreto, trova come sempre la vena realizzativa di Messi, ma mi sembra che il contributo di altri alfieri sia leggermente al di sotto degli standard, per motivi fisici in alcuni casi o per calo fisiologico altri, cioè Xavi e Iniesta sono meno devastanti rispetto al passato, l'inserimento di Sanchez è buono ma non ancora devastante anche questo, e c'è un problema serio che riguarda Vidal, che evidentemente ha problemi lui evidentemente più seri, e in questo credo che gli siamo tutti vicini, però il Barcellona ha un problema serio lì, perché sulla corsia di sinistra non c'è Vidal, non c'è Adriano, probabilmente Guardiola sarà costretto a difendere a 4 con Pujol a sinistra e Dani Alves a destra. Pujol qualche difficoltà in campionato la scorsa settimana a Mallorca, e in tutto questo si deve infilare il Milan, che ha un'assenza grave, quella di Thiago Silva. Secondo me non viene ricordato in maniera opportuna il peso che ha l'assenza anche di Pato, non certo dell'ultimo Pato, ma del Pato di Barcellona. Pato di Barcellona sì, secondo me è stato ricordato poco, ma Pato è veramente, quando sta bene e quando gioca ai suoi livelli, la vera arma che forse il Barcellona fa più fatica a contrastare, e questa io credo che sia un'assenza molto molto pesante. Senti, cominciamo da stasera, anche se il programma non è altrettanto ghiotto, c'è Chelsea, c'è Benfica Chelsea e va bene, e c'è questa prima assoluta dei ciprioti in casa contro il Real Madrid. Real Madrid che mi pare di problemi ne abbia di genere ambientale, non certo tecnici, sì, per stasera, no? Sì, soprattutto Cristiano Ronaldo, i tifosi ciprioti saranno particolarmente aggressivi per quanto riguarda lui, non tanto per il giocatore quanto per un precedente con la nazionale. È annunciato un costante urlo Messi al suo confronto, questo per innervosirlo. Io credo che ci voglia ben altro per fermare Cristiano Ronaldo. Credo che finirà per eccitarlo. Lo temo per i ciprioti, non vorrei essere Chiotis questa sera, però certo è interessante, perché proprio la più piccola contro la più grande, o quantomeno una delle più grandi, certamente una delle grandi favorite. Ecco, qui credo che la quotazione sia quasi inesistente, a parte i bookmaker. Dunque, dicevo di problemi ambientali, perché mi pare che siano successe cose abbastanza turpi nello spogliatoio del Real negli ultimi tempi. Sì. Se persino Butragueño ha preso un po' la posizione che prese un anno fa Valdano di distanza nei confronti di Mourinho, che cosa è accaduto esattamente? Ma intanto è accaduto che a Madrid credo che non so in quanti ultimamente stiano difendendo le posizioni che ha preso José Mourinho. Ricorderete tutti la partita contro il Villarreal, con tutti quei giocatori espulsi, con tutte quelle critiche, con tutte quelle polemiche, con questa costante ricerca di un capro espiatorio nell'arbitro da parte dell'allenatore portoghese. In questo caso la difesa, per così dire, della società, che era stata a volte granitica, era stata tale in passato da far scegliere Florentino Perez tra José Mourinho e Jorge Valdano, scelse di schierarsi con José Mourinho, poi almeno questo è accaduto in pubblico. La sensazione netta che trapela dallo spogliatoio sia che siamo veramente al limite del sopportabile, siamo al livello di guardia probabilmente già anche superato, e che questo livello di guardia non faccia scattare l'allarme rosso solo perché Real Madrid ha rivinto in campionato nell'ultimo turno, si è riportato con la testa sopra dopo due pareggi e ha tenuto un vantaggio di 6 punti e viene di fatto già considerato in semifinale Champions League, e questo diciamo che è il grande coperchio sul pentolone, sì. Che però esploderà a fine stagione in maniera fragorosa. Sì, la sensazione è quella, perché se appaiono sui giornali, ed è la seconda volta in poche settimane, no? Dichiarazioni testuali, certo, non attribuibili a un singolo giocatore, ma se i giornali madrileni, quindi non quelli di Barcellona, scrivono che Mourinho è entrato in spogliatoio dopo quella partita, ha detto ai giocatori: voi dovete dire che l'arbitro ha rubato, soltanto i due portoghesi, combinazione, no? Ronaldo e Pepe, gli hanno dato retta, e gli altri hanno detto: mister, sarebbe ora di finirla con queste, eccetera, eccetera. E tutto questo non è stato smentito dalla società e nemmeno dai giocatori, che poi si sa che sono le gole profonde, no? Perché sono Casillas e questi. Credo che la situazione sia al punto di rottura, ed è incredibile pensando che Real è primo con 6 punti di vantaggio in campionato ed è praticamente in semifinale di Coppa Campione. Sì, c'è tutta una serie di nervosismo, tu ti ricorderai, ne avevamo parlato anche di quella volta nella quale romanzammo un po' la chiacchiera prima di un allenamento con Sergio Ramos, con Casillas, che accusarono Mourinho di non rendersi conto di alcune situazioni, proprio perché Mourinho non era stato un calciatore e loro sì. È evidente che qui siamo alla commedia e alla ripetizione di determinati comportamenti, al punto che poi non dimentichiamoci che Mourinho ha anche abbandonato la conferenza stampa insieme a Sami Khedira per una domanda di un giornalista di Radio Marca. Chi ha letto sulla Gazzetta due o tre giorni fa, credo, un articolo del direttore di Marca, che non è un giornale antagonista a Real Madrid, ha perfettamente capito che Mourinho è stato abbandonato completamente anche dalla stampa da questo punto di vista, anche da quella di più stretta osservanza madridista. Questo è oggettivamente vero. Perché Abate e Van Bommel dove li mettiamo? Domanda Stefania da Belluno. È vero, sono assenze, soprattutto Van Bommel, sono assenze significative, pesanti anche queste, oltre a quella di Thiago Silva, e forse anche queste valutazioni concorrono a sbilanciare le quote in quel modo che si diceva all'inizio. Insomma, ci sono assenze gravi sull'un fronte e sull'altro. Thiago Silva, Van Bommel e Abate sono tre assenze che pesano molto. Dall'altra parte mancano Abidal e Viglia come minimo, poi manca anche il sostituto di Abidal. Insomma, forse ci rimette di più il Milan in questo momento come assenze, anzi toglierei forse, ma non si può dire che non siano grandi giocatori, a cominciare da Abidal, soprattutto per la ragione per cui è assente, non si può dire che non manchino nemmeno al Barcellona. Io, Fabio, ti proporrei questo: di Benfica Chelsea stasera e di Marsiglia Bayern domani sera parliamo giovedì, vediamo com'è andata senza farci vedere l'emicrania prima. Mentre invece visto che a Milano arriva, e non è la prima volta, arriva Leo Messi, cioè il più grande calciatore certamente dei nostri tempi, mi ha abbastanza intrigato quel parallelo di Guardiola della settimana scorsa, che l'ha chiamato il Michael Jordan del calcio. Ma è un paragone impegnativo, però d'altronde Messi ci è abituato, visto che lo paragonano a Maradona. È un paragone che da un lato ci fa capire come la grandezza di questo ragazzo ci costringa noi, e in questo caso Guardiola, continuamente ad alzare l'asticella, perché bisogna sempre trovare qualcosa di nuovo. Ormai l'abbiamo già detto che è il più forte di tutti, fa un sacco di gol e prenderà tanti palloni d'oro da non avere più spazio all'interno della propria bacheca, questo mi sembra abbastanza sicuro. Il paragone con Michael Jordan è ardito per due o tre motivi. Beh, intanto perché parliamo di un giocatore che gioca con i piedi e con la testa e di un altro che giocava con le mani. Jordan iniziò a vincere nell'NBA a 28 anni, mentre Messi ha vinto molto molto prima. Va anche detto che Jordan aveva due dimensioni di gioco, cioè quella dell'attacco e quella della difesa. Jordan era anche un fantastico difensore, al punto da aver vinto anche trofei come miglior difensore dell'anno. Messi, diciamo che può concentrarsi di più su un lavoro offensivo. Anche se lo so che non è la stessa cosa, intendiamoci, ma ogni tanto di Messi colpisce il puntiglio, la caparbietà vera, non di facciata, con cui rincorre l'avversario e pressa comunque alto non appena il Barça, quelle rare volte che il Barça perde il pallone. No, ma infatti Messi non è uno che si riposa mentre gli altri difendono, però è diverso rispetto a un'azione di basket dove questo la difesa, sì. È obbligatorio. Sono diverse le discipline. Sono completamente diverse. Io trovo che Messi dia emozioni e come le dava Jordan, sono emozioni chiaramente diverse, ma sono emozioni. E secondo me la cosa interessante in tutto questo discorso è che sia Leo Messi che Michael Jordan sono riusciti ad andare abbastanza al di sopra delle barriere del tifo. Penso che di fronte a un'azione di Messi o davanti a un'azione di Michael Jordan anche il tifoso avversario la accetti con una serenità maggiore rispetto che per giocate di altri. Sono due cannibali, nel senso che sono due che vogliono sempre vincere, ed è giusto così. Vincerà tantissimo Messi, ha vinto tantissimo Michael Jordan. Diciamo che se c'era un'asticella alta gliela trovate, insomma, Guardiola l'ha paragonato a un numero uno perché Messi è certo, non è che non fosse lusinghiera sta cosa. D'altra parte Guardiola doveva anche ricambiare le parole di Messi di pochi giorni prima, che aveva detto guardate che a Barcellona io, insomma, la mia parte la faccio, ma l'uomo imprescindibile si chiama Pep Guardiola. Ti segnalo questa cosa, un'intervista rilasciata da Laporta, l'ex presidente del Barcellona, il quale ha detto, credo a Repubblica, ieri esatto. Ha detto delle cose interessanti anche, e una di queste ha detto mi piacerebbe che il prossimo presidente del Barcellona fosse Guardiola e il prossimo allenatore fosse Xavi. E penso che insomma sarebbe una bella polizza vita per questo Barcellona avere anche questo. E non è affatto detto che queste due cose non si possano realizzare, perché visto che stiamo parlando di azionariato popolare e di tantissimi soci che votano, il giorno che Guardiola decidesse di, non adesso perché è troppo giovane, ma di cambiare panni e di mettersi una giacchetta formalmente più severa, io credo che lo voterebbero in massa, no? Perché penso che lo voterebbero tutti e penso anche che possa non essere così lontano. Io non sono sicuro che Guardiola abbia voglia di andare ad allenare un'altra squadra. Io non mi stupirei per niente che lui rinnovasse ancora per un anno e poi alla prossima tornata elettorale. Non mi stupirebbe. Ci sono allenatori così giovani oggi in grandi club italiani, no? Che può anche darsi che questa linea verde passi anche nelle presidenze. Io volevo concludere questa conversazione di oggi con un dato che Franco Piantarida mi ha segnalato a proposito del discorso che facevamo prima, che facevi tu sulla capacità difensiva di Messi. Nella semifinale di Champions con Real lo scorso anno, quella più drammatica e quella più spettacolare, Messi fu il giocatore che fece più falli di tutti in quella partita, giusto per dire, no? Non è uno che le botte le prende, poi non è che le botte le dia, però è uno molto ma molto tignoso anche nella fase di recupero, e questo completa, no, la figura di questo campione. Certo. Ci sentiamo giovedì, Fabio. Volentieri. Ciao Gigi, un saluto a tutti. Caro Ministro, grazie del collegamento. Mi può spiegare, domanda Raffaele da Lavello, provincia di Potenza, perché De Laurentiis non vuol giocare a Roma alla finale di Coppa Italia? No, Raffaele non glielo so spiegare, sinceramente. Ho letto qualcosa, mi sono sforzato di cercare di capire, sembra che in ballo ci siano 5-6 mila posti in più, cioè che vorrebbe giocare a San Siro perché così potrebbe vendere, insomma, così sarebbero disponibili 5-6 mila posti in più, che con i prezzi che girano, no, per questa finale di Coppa Italia rappresenterebbero comunque una bella somma. Non mi pare che questo possa bastare a compensare intanto i disagi dei napoletani nel muoversi fino a Milano anziché fino a Roma, ma al di là di questo anche la sacralità di questa finale, no? Che si gioca all'Olimpico proprio per rispettare un cerimoniale, per la presenza del capo dello Stato, per altre valutazioni che, insomma, con cui si cerca, ripeto, di dare un minimo di veste più ufficiale a una manifestazione che sì, diventa importante dai quarti o dalle semifinali in avanti, ma che per il resto dell'anno è sempre bistrattata. D'altra parte, la reazione di Petrucci, che già era stata molto dura in precedenza a proposito di queste iniziative dei laureati, si è diventata ancora più dura oggi, perché una dichiarazione ufficiale di stamane è: stiamo valutando la possibilità di non concedere l'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Questo ha detto il presidente del CONI e evidentemente lo scontro si è molto molto inasprito. Poi c'era un'altra domanda che adesso vado a cercare sul display di un altro ascoltatore. Mi spiega perché Moratti non ha mai pensato di dare una chance a Baresi in questi mesi? Domanda Giovanni da Brescia. Anche in questo caso non sono davvero in grado di rispondere, se non di come dire, non condividere, per usare un eufemismo, la scelta che l'Inter ha fatto ieri, non tanto di esonerare Ranieri, che secondo me al capolinea c'era già da qualche giornata, ma in ogni caso di cambiare in questa maniera così sorprendente. 800 24 00 24, come sempre il numero per i vostri interventi. Ha chiamato Giovanni dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Era proprio sull'Inter che volevo parlare ed era proprio su Stramaccioni. Io direi una cosa: l'altro giorno lei aveva intervistato Mazzola e ha detto che in questo periodo poteva essere adeguato il fatto di poter far giocare l'Inter con dei giocatori un po' più giovani, quindi Ranocchia piuttosto che Obi, piuttosto che Poli. Io credo che Ranieri non l'abbia fatto e che forse questo motivo è stato, diciamo, la sua fine, e abbia pensato Moratti di portare Stramaccioni perché, visto che aveva appena vinto con la Primavera e tutto quanto, di portarlo a mettere un allenatore per far giocare dei giovani. Questo sarebbe l'unico motivo per cui io credo che sia valsa la pena di fare questo cambio. Lei cosa ne pensa? Io penso che il percorso possa essere stato questo. Penso però che un allenatore del 76, il cui capitano è del 73, perché Zanetti ha 3 anni più di Stramaccioni, Stramaccioni poi è coetaneo di Cordoba e ha un anno meno a sua volta di Castellazzi, non so quanto possa essere la persona indicata. Poi io credo che questi siano i momenti in cui, se tu lanci dei giovani, li bruci verdi, e parlo sia di giocatori che di allenatore. Poi è vero che la situazione dell'Inter di quest'anno è talmente disastrosa che tutto può accadere nel male così come anche nel bene. Non è nemmeno vero che Ranieri non avesse qualche giovane, non l'avesse inserito, perché Obi, per esempio, Obi stava giocando e come. Ranocchia forse lo stava proteggendo dopo le figuracce delle ultime uscite, magari stava aspettando che tornasse un po' più in forma oppure che metabolizzasse quegli errori gravi, no? Di cui si era macchiato appunto le ultime volte che lo si era visto. Il problema di Ranieri semmai non è che qualche giovane non lo metteva, è che lo sostituiva sbagliando, come ha fatto a Torino domenica sera, e credo che quei due cambi abbiano pesato nella valutazione. Rimane il fatto che la riconferma di un tecnico fatta la mattina e poi smentita la sera, insomma, ci riporta la migliore Inter che ricordavamo. E c'è Lino che vuole giocare a Trieste, domanda un ascoltatore, domanda quanto mai opportuna, ci deve essere un virus in giro, no? Sui cambi di stadi. Ma quello di Cellino, pur nella sua provocatorietà, mi sembra abbia un fondamento in più. Perché? Perché il Sant'Elia attualmente è uno stadio chiuso a metà, nel senso che sono inagibili i distinti e la curva sud, la capienza è ridotta a 14.000 posti, mentre per la Serie A la capienza minima sarebbe, la capienza minima richiesta dalla Lega, è di 20.000 spettatori. Il Cagliari sta giocando con una deroga da inizio stagione. E Cellino sta cercando di richiamare l'attenzione, insomma, di risolvere questo contenzioso con la regione, in vista non solo di questo finale di stagione, ma soprattutto del prossimo campionato. Da qui la richiesta, la richiesta di giocare a Trieste, cioè da Cagliari a Trieste, le ultime partite di questa stagione. Ovviamente a Trieste la palla al balzo l'hanno presa al volo, sicché l'assessore allo sport del comune ha già risposto che per le ultime gare casalinghe del Cagliari il Nereo Rocco di Trieste è disponibile, ha confermato anche di aver ricevuto una richiesta scritta. E c'è solo un problema di date e di concomitanze, perché ovviamente a Trieste, in linea di massima, gioca la Triestina, che di questi tempi non è sto grande richiamo, ma insomma è pur sempre la padrona di casa. Da notare che il 7 aprile c'è in calendario un Cagliari-Inter, ma soprattutto il 6 maggio è previsto un Cagliari-Juventus, che a questo punto dunque si giocherebbe non più a Cagliari ma a Trieste. Bruno ha chiamato da Monza, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sono io, sono un interista, vecchio e disperato. Mi chiedo, chiedo a lei perché lei è un esperto, quante squadre in così poco tempo siano passate da una posizione talmente elevata a una talmente bassa? E ne esiste qualcun'altra, magari una squadra di Cipro, non so, io qualcosa? Io penso di no. Ora mi chiedo, ma dove vuole arrivare Moratti con questo suo pressapochismo, dilettantismo? Ma che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Dove vuole arrivare questo signore? Beh, dove vuole arrivare? Non lo so, vuole cercare di risollevare evidentemente le sorti dell'Inter, cercando, battendo strade nuove. Questa è indubbiamente nuova. Poi cosa vuole? Io al massimo posso registrare le reazioni. Raffaele Apostoliti scrive: mi chiedo se Stramaccioni non rischi di fare la fine di Ferrara alla Juve, oppure bruciato anzitempo. Io sono convinto di sì, ma bisogna vedere anche qual è il progetto. Cioè, Stramaccioni fa queste nuove partite e basta, a prescindere, oppure fa queste nuove partite per prepararsi a un'eventuale candidatura da prima squadra la prossima stagione? Questa scelta giovanilista sarebbe, ci sarebbe stato ugualmente se, faccio per dire, l'Inter primavera l'altra sera avesse sbagliato un rigore in più o l'Ajax ne avesse segnato, insomma, e fosse stato diverso l'esito di questa, che come Luca Vitrotti scrive, chiamano Champions League primavera, ma è un semplice torneo di inviti, tra l'altro. Ma questo non è per sminuire il valore della vittoria che l'Inter ha ottenuto con l'Ajax, che ha uno storico vivaio di altissimo livello, ma è soltanto per dire che, infatti, questo ascoltatore domanda: ma mi spiega perché continuano a chiamarla Champions League primavera? Marketing, caro Luca, si chiama marketing, e da tempo, no, mi pare che ci dobbiamo fare i conti, da un torneo di inviti a Champions League, e poi con la concomitanza della sconfitta di Torino, ultima di una catena interminabile di sconfitta, insomma l'esaltazione credo eccessiva per questo successo, e il tentativo di rimescolare le carte in maniera molto diversa dal solito. Claudio Udine, buongiorno. Ah, buongiorno Gigi, un saluto qua dal Friuli. Volevo solo dire questo: ho sentito l'intervento del amico interista, io sono esattamente all'opposto, credo che noi dobbiamo solo ringraziare il Presidente con tutti i suoi limiti per quello che ha fatto per questa squadra. Però la domanda è questa: lei diceva prima, sì, forse Stramaccioni viene mandato al massacro, ma cosa poteva fare adesso il nostro Presidente? Voglio dire, credo, se non mi sbaglio, che l'Inter nel girone di ritorno abbia fatto 6 punti, forse solo meglio del Cesena. Se non facevamo quella serie di vittorie, rischiavamo seriamente con questa squadra, in queste condizioni, una retrocessione. C'è un altro allenatore in questo punto da poter mettere lì a fare sopravvivere queste 9 partite, perché tanto peggio di così, ormai salvi siamo fuori da tutto. Credo che la realtà sia davanti agli occhi di tutti, credo che nessun professionista, diciamo, importante sarebbe venuto a prendere questa squadra, anche perché credo che il nostro Presidente intenzione o possibilità o voglia di investire come una volta oggi non abbia. Io spero solo una cosa, che questo allenatore tenga decisamente, fortunatamente per sempre, fuori Lucio, che è una delle principali cause, secondo me, e vorrei sentire anche la sua opinione, dei disastri della difesa dell'Inter. Questo lo condivido certamente, non da oggi. Sul resto però io le faccio una controdomanda: ma che garanzia ha l'Inter di cioè che sì, che garanzie, che speranze, facciamo anche solo speranze e non garanzie, all'Inter, che fondamenti ha la promozione di un allenatore che è abituato a lavorare con i giovani e che deve misurarsi di colpo con queste vecchie con questi giocatori di lungo corso, eh? Nessuna. È questa la vera La speranza di trovare nell'uovo di Pasqua. Ma la speranza, ragazzi, cioè la speranza era che Benitez fosse come Mourinho. No, come Mourinho no, perché con Mourinho un altro al mondo non esiste, no? E non è mai esistito, e questo lo si sa. Però la prima speranza era Benitez, la seconda era che Leonardo cosa, la terza era che Gasperini fosse, la quarta è stata Ranieri. Adesso questo, con tutto il rispetto per lui e per la brillante carriera che sta facendo in squadre giovanili, la domanda di fondo, mi pare, se vogliamo parlare di sostanza, se poi vogliamo stare in superficie o cavarcelo con le battute, ce n'è di battute. Ieri l'hanno deciso il 26 marzo, ma potevano aspettare 5 giorni, che almeno era il 1 aprile, secondo me. Ma al di là di questo, che ripeto, non garanzie, ma insomma, che riscontri possono esserci sostanziali, che un allenatore abituato con dei ragazzini che evidentemente sono un pochino più plasmabili possa avere la personalità e di conseguenza poi anche i risultati che invece bisogna ottenere con della gente molto più difficile da gestire. Facciamo così, proviamo a ricostruire la giornata di ieri, perché è divertente, secondo me. Questo è di mezzamattina, Moratti. È chiaro che è un brutto colpo, è chiaro che è una sconfitta anche in parte immeritata per il primo tempo fatto, però siccome bisogna far gol e non li abbiamo fatti, poi è normale che si possano prendere anche. Però ecco, vedendo i giovani, il morale sale, perché c'è una buona percentuale di giocatori molto bravi. Ranieri fino alla fine della stagione? Una domanda. Penso di sì. Beh, era un penso di sì, la domanda era Ranieri fino alla stagione, era un penso di sì, non era una... evidentemente il tarlo già era in avanzata, si stava facendo strada. Nel pomeriggio, questa era tarda mattinata, nel pomeriggio, quindi prima della chiamata, della nomina serale, l'intervento di Stramaccioni. Quello che ha detto un attimo prima della partita e quello che mi ha detto a fine partita... Penso che capirete che non vi arrabbiate se me lo tengo per me. Se Moratti chiama io rispondo sempre, perché è il mio presidente. No, ma rispondi sì, comunque, sì. Moratti è il mio presidente, quindi risponde cosa, sì. Io risponderò alla sua chiamata. Dunque, lei metterebbe, scrive Stefano, un neo maestrino delle elementari a insegnare in una turbolenta classe di liceali ripetenti? Beh, la domanda non è male. Un neo maestrino lo trovo un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo 36 anni, mica tanto, insomma, di questo giovane allenatore che insomma, secondo me non merita ironie, no? Perché non è stato lui a fare questo salto, gliel'hanno fatto fare. Però facciamo così: un bravo maestro delle elementari insegnare in una classe turbolenta di liceali ripetenti, questa mi sembra carina. Grazie e congratulazioni chi è che l'ha firmata questa battuta? A Stefano. Va bene, a Stefano. Sentirei Rinaldo, chiedo scusa, che ha chiamato da Roma. Buongiorno. Buongiorno, grazie, mi salve. Seguo attentamente il campionato di Ibri e volevo chiederle cosa ne pensa delle angherie che Pescara subisce dagli arbitri quasi ogni sabato. Io ritengo, per causa di queste grassazioni, Pescara non salirà in A come merita e ricomincerà la litania di quelli che parlano di Zeman come di un perdente, quando invece a mio parere bisognerebbe analizzare un po' meglio i pessimi rapporti a questo allenatore grande, a mio parere fortunato, e il palazzo almeno dal 1998. Grazie a lei, Rinaldo. Io è inutile che le confessi che non seguo il campionato di Serie B, perché mi basta e mi avanza quello di Serie A, e se mai se proprio devo, insomma, un'occhiatina ai campionati stranieri, sinceramente è un pochino più divertente, soprattutto qualitativamente. Detto questo, il Pescara sta, da quel poco che so e che ogni tanto mi capita di sbirciare, il Pescara sta oggettivamente facendo un grande campionato. Da quel poco che ho letto, sabato è stato penalizzato da, mi pare, due gol in fuorigioco che ha subito ad Ascoli, quello del 0-1 e dello 0-2. Faccio sempre un po' fatica a pensare alla congiura, cioè faccio sempre un po' fatica a saltare da lì alla congiura, come per altre squadre di Serie A. Credo il Pescara attualmente mi pare sia in posizione ancora di promozione, no? Salvo errori o omissioni. Io credo che se continua a giocare a questa maniera ce la fa, e sono anche convinto che prima o poi segnerà un gol in fuorigioco, glielo daranno, e che quindi quelli che sostengono che c'è una congiura del danni nel Pescara poi faranno. No, in quel caso non faranno ammenda, perché qual è il bello? Che siano tifosi o che siano dirigenti, qual è il bello di queste denunce, di queste situazioni? Che non si accusa mai ricevuta, si accusa sempre solo, lo scontrino di quando l'arbitro ha sbagliato a tuo danno e ti ha fatto un torto. Ma vigliacco se uno si sbaglia mai a dire: osteria, oggi effettivamente ci è andata abbastanza benino perché l'arbitro ci ha regalato un gol. Mai sentito nessuno, e credo che nessuno sentiremo mai. Un ascoltatore spiritoso oggi non sono pochi, cioè non siete in pochi. Scrive che dopo Stramaccioni probabilmente avrà il prossimo allenatore di una grande squadra, sarà Bacconi, cioè quello della Rai che impazza con quegli schemi, con quelle cose, con quell'aria da scienziato, non dico pazzo, ma insomma da scienziato estroso, ecco, mettiamola così. E questo ascoltatore crede di scherzare facendo queste battute, invece io sono abbastanza convinto che prima o poi succede, e non necessariamente il primo di aprile. Nicola Filippone, un 27 marzo. Sembra ieri. 27 marzo 1983. Il Torino di Bersellini batte la Juventus di Trapattoni in uno dei derby più avvincenti di sempre. I bianconeri si portano in vantaggio nel primo tempo con Paolo Rossi e raddoppiano al ventesimo della ripresa con Platini. La gara sembra ormai avviata verso un tranquillo successo della Juve, ma i granata non si arrendono. E in meno di 5 minuti, tra il 70° e il 75°, si scatenano. Prima D'Ossena accorcia le distanze di testa su cross di Galbiati. Quindi Bonesso, sempre di testa, imbeccato da Beruatto, batte Zoff per un insperato pareggio. Infine Torrisi, con una pregevole girata da centroarea su cross morbido di Van der Korput, sigla la rete del sorpasso che fa impazzire il pubblico granata. La Juve, sotto shock, è piombata in un incubo in piena regola e non riesce a reagire, mentre il Toro, galvanizzato, continua ad attaccare fino al 90°. Beh, l'ascoltatore scherzava, ma con Franco Piattarini ai pareggi scherzare non si può, perché Bacconi a 33 anni, mi informa Franco, nel 97-98 allenò il Brescia per 6 giornate, affiancando Egidio Salvi, e nelle prime 3 di queste 6 giornate fece il pieno, fece 6 punti, perché allora c'era, no, non c'era già più il 2 punti di vittoria, vuol dire che fece 6 punti su 9 disponibili. Alessandro, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Io facevo una riflessione sul Milan, la mia squadra del cuore, e facevo questo tipo di riflessione, cioè vedendo Messi come gioca, la sua velocità, e avendo a che fare Messi e il Barcellona con un Milan obiettivamente ansimante, vuoi per la stanchezza, vuoi per gli infortuni, mi chiedo, ma due pali come Nesta e Mexes, con Messi e Alexis Sanchez, che fanno? Punto interrogativo. Grazie dell'ascolto per radio. È una bella domanda, in effetti. Io non so se giocherà, non so come sceglierà di schierare la difesa domani Allegri. D'altra parte, sa, quelli sono, cioè, Thiago Silva non c'è, centrali penso che giocheranno Nesta e Mexes, a meno che giochino Bonera e Mexes, se non si fila di cosa, però manca anche un esterno destro, perché Abate non può giocare, insomma, in 11 li dovrà mettere, e poi cercherà di giocare con la maggiore saggezza, saldezza difensiva possibile, perché è chiaro che se il Milan vuole avere una speranza di passare il turno non deve prendere gol domani, o proprio se va male deve prendere lo strettissimo indispensabile, intendo dire, perché quindi una partita saggia, una partita, non dico da linea Maginot come avrebbe impostato il Parò, ma certamente una partita da non prendere gol in casa, nelle intenzioni, e poi si vede cosa si può fare contro il Barcellona. Ivan, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. niente, io in redazione ho dato, purtroppo mi sono sbagliato, volevo diciamo parlare del Barcellona, in realtà era il Real Madrid. Sì. Per la partita di questa sera, ma sì, io volevo una sua tra virgolette previsione riguardo appunto la partita dell'Apoel, nel senso che secondo lei darà del filo da torcere al Real Madrid o il Real Madrid farà ritornare nei ranghi insomma la squadra che non penso sia all'altezza insomma di questa situazione per dove è arrivata, diciamo. Ma, insomma, io penso da ottobre, penso da ottobre e credo averlo detto a ripetizione, che quest'anno la Coppa dei Campioni la vincerà il Real Madrid, perché ha più voglia, ha più fame, ha più rabbia del Barcellona, non gioca nei momenti migliori, non gioca divinamente come gioca il Barcellona. Il Barcellona è una sinfonia, questa è un po' più rock, è un po' più a strappi, a sussulti, però ha dei momenti in Real assolutamente irresistibili. Questo in assoluto, si immagini se può avere problemi con l'Apoel, sì, può avere qualche può subire qualche attimo stasera, qualche momento, magari può anche non fare un grande risultato, no? In fondo pareggiò 1-1 l'ottavo di finale in casa dei russi, che credo siano abbastanza modesti come l'Apoel, quindi non è detto che stasera faccia sfracelli, ma insomma sulla qualificazione Real sarebbe la fine del mondo se il Real andasse fuori all'Apoel, no? Una squadra, ripeto, che è la favorita o la cofavorita per vincere il trofeo. Da Milano Umberto. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io l'ascolto molto volentieri, che devo dire che condivido spessissimo i suoi commenti. Ma non condivido in merito al discorso dell'Inter, ma per un semplice motivo. In un'Italia dove tutti dicono che bisogna premiare il merito ai giovani, non vedo perché farsi tanti problemi perché un allenatore di calcio di 36 anni vada alla guida di una squadra come l'Inter. Forse lo scontro con questi vecchi senatori sarà salutare per l'Inter. Alla fine io vorrei capire una cosa, ma visto che giornalisti come lei sottolineano questo cameratismo all'interno degli spogliatoi, un giovane che rompe il sistema forse può essere positivo. Cioè, alla fine questi giovani cosa fanno? I vecchi cominciano a impuntarsi, a reagire male, saranno stuole di avvocati dell'Inter che prenderanno provvedimenti e rescinderanno il contratto per mancanza di professionalità, non lo so, cioè io la vedo così, cioè. Lei la vede così, guardi, io non ho grandi esperienze di spogliatoio, ma qualcosina più di quelle che ha lei ho l'impressione di averla. Il calcio non è una cosa così semplice, non è una roba che i contratti si rescindono perché in avvocato, in spogliatoio uno ha detto a Cipicchia o qualcosa del genere. Non credo proprio, sarebbe troppo facile, ma sarebbe troppo lungo il discorso, mentre invece c'è già la musichetta di sfondo, quindi grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, a Nicolò Rinaldi in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti.